A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, avrete capito dalla colonna sonora di questa canzone così suggestiva che da più di un quarto di secolo ormai, pensate come passa il tempo, fa da colonna sonora per l'appunto all'innamoramento dei napoletani che non credo tramonterà mai per il loro idolo di sempre, per Diego Maradona. Oh, in teoria la giornata di oggi sarebbe come dire una conta alla rovescia, perché manca una settimana alla proclamazione del Pallone d'Oro. Ma chi se ne frega del Pallone d'Oro, in tutta sincerità, anche perché ormai insomma di sorprese ce ne saranno ben poche. Ci sarà giusto il nome del vincitore, ma già si sa, e si sa da più di un mese, che toccherà uno tra Xavi, tra Messi e Iniesta. Quindi si sa che se da un lato può avere un senso aver premiato in blocco la cantera del Barcellona, la Masia in catalano, dall'altro lato i giurati hanno oggettivamente esagerato, perché nell'anno solare 2010 sinceramente più di Messi aveva combinato Sneijder, e su questo direi che non ci sono dubbi. Non solo, ma più di Messi aveva combinato Sneijder proprio nelle manifestazioni che da sempre orientano le scelte per il Pallone d'Oro, e cioè nel Mondiale, visto che è stato un anno da Mondiale, e nelle coppe europee, la Champions League, molto più che non nei singoli rispettivi campionati. Amen. Il Pallone d'Oro lo scopriremo tra una settimana, e noi oggi invece lo lasciamo al suo destino, e a grande richiesta, ma davvero a grande richiesta, vi riproponiamo l'ascolto di quella puntata che andò in onda a fine ottobre, a cavallo tra i compleanni dei due più grandi giocatori di sempre, i 70 anni di Pelé e i 50 anni di Maradona. Un appuntamento nazional popolare, no? Mi ricordo che allora insomma mi venne da definirlo così, perché sono quegli interrogativi, quei referendum, quelle scelte che non sono basate alla fine su nulla di razionale e di parametri oggettivi, ne hanno ben poco. Sono il bello del calcio quando si è a questi livelli supremi, che sono stati rappresentati anche da parecchi vostri messaggi che erano arrivati allora. Parecchio è un eufemismo, perché se è vero che prima di stampare bisogna pensare all'ambiente, insomma, abbiamo dovuto a un certo punto pensare davvero all'ambiente per smettere di sprecare troppa carta. Alcuni li ascolterete nel corso del programma, altri li avevo conservati perché non so, Elio Strazioso ha scritto da Pescara questo ricordo: una volta Beccalossi disse, quando giocavo e degli avversari mi passavano dietro senza che li vedessi, sentivo dei passi. Quando era Maradona sentivo solo il fruscio dell'erba. Scrisse questo ascoltatore in nome Elio: mi è sembrato il modo migliore mai sentito per descrivere un calciatore, detto da un collega, e tra l'altro che collega. Certo, un altro, Enrico Cavani da Modena, aveva scritto: il giorno del funerale di Best fu esposto questo cartello: Pelé good, Maradona better, George best, evidentemente. E questo introduce il fatto che chi dice Best, chi ha detto Cruyff, chi, e sono in tanti, sostiene Di Stefano, non è poi detto che davvero Maradona e Pelé siano stati i due più grandi di tutti i tempi. Certamente è probabile, ecco, e altrettanto certamente la maggior parte di chi si è cimentato su questo dualismo la pensa a questa maniera. Cominciamo, dicevo, dal testo che Mina, la più grande cantante italiana di tutti i tempi, ha scritto domenica scorsa per la sua rubrica sulla copertina della Stampa. Mina, griffato una certa Mina, 50 più 70, 120 anni di genio, di vittorie e di gesti sportivi sublimi e ineguagliabili, di primati sbalorditivi, di grandi emozioni. Pelé compie 70 anni e Maradona 50, a pochi giorni di distanza. E non è soltanto il segno zodiacale che li accomuna. Due giganti, due benefattori, azzarderei. Sì, perché insieme a loro anche noi, nel buio della nostra cameretta rischiarata dalla luce azzurrina della tele, nell'anonimato della nostra vita, faccio un inciso, sta parlando Mina, nella triste abitudine al quotidiano sbandamento personale, saliamo sul podio, sul gradino più alto, e siamo campioni del mondo. Due colossi.

Sentiamo come va sui mercati.